e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Cari amici di Cuore e Denari, buongiorno a tutti. Da Deborah Rosciani, oggi al timone da sola nel nostro programma. Nicoletta torna domani, quando non ci sarò io, ve lo anticipo già. Questa settimana ci passiamo il testimone più volte. Carmelo se la ride, vabbè, ogni tanto anche noi abbiamo bisogno di qualche permesso per qualche impegno personale, e quindi per fortuna che abbiamo questa squadra pienamente funzionante di amiche, complici naturalmente, che si sostengono anche nei momenti di bisogno. Detto questo, naturalmente oggi spero degnamente di portare avanti anche la puntata tutta da sola, appunto anche per quello che riguarda la parte di Cuore, che sarà dedicata al tema della sigaretta elettronica. C'è un nuovo studio molto importante che commenteremo con il nostro amico preferito su questo argomento, il dottor Roberto Boffi, pneumologo all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, e poi parleremo anche di longevità, anche in questo caso altri studi da commentare insieme alla nostra amica Giovanna Luini. Per quello che riguarda invece il tema di Denari, faremo un approfondimento a partire dalle 11, sempre su un tema che in qualche modo può essere ricondotto anche alle questioni di longevità. Parleremo di welfare, ma non di tutto quel mondo che attiene ai trattamenti pensionistici e quindi allo stato sociale, come deve farsi carico della popolazione anziana. Parleremo di welfare, ma di quello aziendale. Oggi a Roma viene presentato un indice molto importante elaborato dal gruppo Generali, che misura tutte quelle iniziative che vengono messe in campo dalle imprese italiane sempre più attente alla qualità della vita dei propri dipendenti, qualità della vita personale e lavorativa. E vi faremo anche un punto della situazione, speriamo più completo possibile, di tutte le iniziative che vengono messe in campo in questo momento da molte società che si stanno specializzando nell'erogazione di servizi di welfare, appunto, aziendale. Per cui, se avete delle idee su questo tema, qual è la qualità della vita all'interno della vostra azienda, come si sta comportando, se me lo volete raccontare, chiaramente se state lavorando sarà un po' difficile stamattina prendere in mano il telefono e prendersi una pausa appunto per testimoniarci questo, ma se magari stamattina siete a casa e avete così voglia di raccontarci qual è l'esperienza professionale che state vivendo, 800 24 00 24, conoscete le iniziative di welfare aziendale, oppure siete degli imprenditori, magari titolari di una piccola impresa che si sta avvicinando adesso a questo mondo, non sa bene quali benefit organizzare per i propri dipendenti per migliorare appunto la qualità di vita all'interno dell'ambiente di lavoro, raccontatecelo e magari stamattina vi forniremo una consulenza qua in diretta a Cuore e Denari. Prima di tutto però partiamo anche, come sempre facciamo, con un'occhiata ai temi di borsa. Allora, la borsa stamattina, ieri è stata negativa in Europa, anche Wall Street ha vissuto una giornata non tanto brillante, i cali ci sono stati, non sono stati particolarmente forti, preoccupanti, però è ritornato un po' di malumore a Wall Street, che sta riportandosi sui livelli preelettorali prima delle elezioni di Donald Trump. Quel Trump che aveva dato una spinta considerevole al mercato azionario, adesso invece per colpa di Trump si sta un po' tutto arenando. C'è la retromarcia di Wall Street, ma c'è soprattutto la retromarcia del dollaro, perché l'euro si è portato ieri sopra quota 1,09 rispetto al biglietto verde, oggi arretra un po', ma siamo a 1,0850. L'Europa invece stamattina non ne recupera più di tanto, l'unica piazza che lo fa e Francoforte più 0,6%, lo fa anche Milano che era un po' più vivace in apertura più 0,37%, adesso sul FTSE MIB. I migliori titoli stamattina: titoli Tenaris più 2,40, Moncler più 1,90, UBI Banca più 1,45, BPR Banca più 1,20. Abbiamo un rialzo di oltre un punto anche per la Ferrari, ancora in corsa dopo la vittoria del Gran Premio d'Australia del weekend, il banco BPM appunto più 1,19%, mentre tra i cali segnaliamo quello del 2% di Recordati, e perdono invece mezzo punto Leonardo, Finmeccanica, Terna e Snam Rete Gas. Allora, torniamo a parlare, come vi anticipavo poco fa, di sigaretta elettronica. Andiamo subito al primo tema di Cuore di questa mattina, che guadagna i favori dei fumatori, lo sappiamo, alle prese con la voglia e la necessità di smettere, ma che ancora divide molto gli addetti ai lavori. Un tema divisivo, come si dice in queste circostanze. Allora, intanto, se volete al volo intervenire in diretta a raccontarci se fumate, se svapate, all'800 24 00 24, oggi proviamo a fare un po' di chiarezza con i risultati delle ultime ricerche appunto alla mano. L'ultima in ordine di tempo è firmata proprio dall'Istituto dei Tumori di Milano e dal gruppo del nostro dottor Roberto Boffi, pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, che salutiamo. Dottor Boffi, buongiorno, ben ritrovato. Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno a voi. Allora, le questioni aperte relative al fumo elettronico sono tante: la sicurezza a lungo termine, il rapporto rischi e benefici, la reale efficacia nella cessazione del fumo. E voi, con il vostro lavoro che è stato pubblicato anche sulla rivista Aerosol Science and Technology, avete cercato di dare delle risposte. No? Allora, partiamo con ordine, dottor Boffi, dicendo che il vostro è il primo studio indipendente che mette a confronto le sigarette elettroniche di vecchia e nuova generazione con il fumo di tabacco. Allora, diamo un po' le prime risposte in merito a questo punto. Sì, le sigarette elettroniche sono oggetto di dibattito e di studio, diciamo, da qualche anno, no? C'è un utilizzo che è cresciuto negli ultimi tempi, siamo ormai quasi a 4%. Dati dell'Istituto Superiore di Sanità di utilizzatori di sigaretta elettronica, quindi sono ricerche che non possiamo noi, come Istituto di Tumori, essendo il fumo il principale fattore di rischio prevenibile di tumore, infatti, oltre che di malattie cardiovascolari, esimerci da studiare in maniera autorevole, come ha detto lei, e la ringrazio di questo, indipendente anche, soprattutto, aggettivo a cui tengo molto, questo fenomeno che sta evolvendo a livello tecnologico e anche a livello di business, perché c'erano quelle e ci sono tuttora le sigarette elettroniche con i liquidi, con o senza nicotina, sì, e ci sono i nuovi prodotti, il cosiddetto fumo freddo, il fumo che non raggiunge la temperatura della combustione, e sono i nuovi prodotti di tabacco che si surriscalda e che è stato lanciato ultimamente nel mercato italiano, oltre che in Giappone, ha già preso molto piede. Quindi ci sembrava doveroso analizzare le potenziali tossicità e l'uso di questi nuovi prodotti, sia per chi appunto fuma o svapa nei luoghi chiusi, e per chi sta vicino a chi utilizza le vecchie sigarette elettroniche, quelle nuove. Infatti, allora, in questa eterna, tra virgolette, lotta, concorrenza, come la vogliamo chiamare, tra fumo elettronico e fumo di tabacco, dottor Boffi, allora avete scoperto qualcosa di nuovo, e soprattutto in questo confronto avete messo in campo parametri nuovi? Sì, abbiamo cercato di valutare vari tipi di sostanze e abbiamo fatto una gara, diciamo così, a chi danneggia di più o di meno, a chi inquina di più o di meno, e i parametri presi in considerazione. Lei sa che noi da molti anni studiamo anche il fumo passivo, sì, per cui, diciamo, siamo stati avvantaggiati nel fare queste misurazioni. Abbiamo scherzato un sacco di volte, esatto, su quello che a me infastidisce di più, che è quello lì fuori dal portone del treno, appena si esce trovi, esatto, la barriera di fumo prima di quella umana. Esatto. È una cosa che, tra virgolette, attaccheremo presto. Oh, comunque, non è normato, però insomma sono d'accordo con lei che lì si raggiungono alte concentrazioni di polveri sottili. Le polveri sottili, il PM10, il black carbon, cioè la componente tossica del PM, è una delle cose che abbiamo analizzato anche nel vapore e nel fumo freddo. Poi abbiamo cercato le aldeidi, i metalli, i composti organici, e quindi abbiamo fatto, come dicevo prima, una classifica di questi tre prodotti, che c'è una ovvia gradualità, da quello meno tossico, che diciamo sono le vecchie sigarette elettroniche, a quello più tossico in assoluto, che rimane tuttora la sigaretta tradizionale. Le sigarette col fumo freddo sono, diciamo, a metà, ecco. In particolare abbiamo trovato aldeidi in quantità statisticamente significativa, la formaldeide è notoriamente cancerogena di gruppo 1 per lo IARC, e anche alti elevati di un metallo che è tossico per le mucose, per la gola, che è lo stagno. Quindi questo ha evidenziato che non si tratta assolutamente di prodotti totalmente innocui. Raccomandazioni particolari da dare ai nostri ascoltatori per quello che riguarda invece il fumo passivo da sigaretta elettronica, da fumo elettronico? Beh, allora, le vecchie sigarette elettroniche confermano un'emissione significativa di alcuni metalli pesanti, in particolare il nickel, che non c'è nel fumo freddo. Il nickel è comunque una sostanza a cui notoriamente ci sono un sacco di persone che sono allergiche, intolleranti. E questo potrebbe essere una delle cause per cui molte persone asmatiche, allergiche, non sopportano la sigaretta elettronica o stare di fianco a una persona che la usa, che svapa. Quindi il nostro consiglio, che vale per le sigarette elettroniche e con vecchie e quelle di nuova generazione, il cosiddetto fumo freddo, è di andare a usarle, a fumare fuori, perché si tratta comunque di sigarette, senza o con tabacco, che quindi vuoi per l'esempio, vuoi perché un po' inquinano l'ambiente indoor, possono determinare un fastidio, ma direi di più un danno per chi poi in quell'ambiente vive, mangia, dorme, no? Ecco, non parliamo anche degli ambienti lavorativi come il nostro, ad esempio l'ospedale, dove secondo noi è assurdo che non vi sia una legge che ne proibisca l'uso. Poi all'interno di ogni struttura poi vengono scelte delle strategie personali, ad esempio all'istituto di tumori non si possono usare le sigarette elettroniche, ma non c'è una legge. Ci mancherebbe pure certo, ci deve muovere il buon senso, ma effettivamente esatto. Che l'unico questo divieto è stato nelle scuole, perché è stato recepito la direttiva europea, per cui il ministro Lorenzin un anno fa ha fatto questo decreto col divieto non solo di fumo ad esempio in macchina in presenza di minori, di donne incinte, ma anche l'utilizzazione delle sigarette elettroniche nelle scuole, perché la vendita ai minori, anche se peraltro i dati dell'Istituto Superiore di Sanità che citavo prima sul fatto che si svapa molto di più, dicono anche due cose che continuano per noi a essere molto preoccupanti, cioè il 70% di chi usa le sigarette elettroniche sono fumatori duali, quindi vanno a fumare fuori e svapano dentro, e questo vale anche per le nuove sigarette elettroniche col fumo freddo, ancora peggio che c'è il tabacco, e l'11% si sono avvicinati per la prima volta alle sigarette elettroniche senza essere mai stati fumatori, quindi questo rischia anche, soprattutto se si parla di minori, di nel medio-lungo termine creare una nuova generazione di persone dipendenti dalla nicotina, e questo per noi naturalmente non è una buona notizia. Dottor Boffi, grazie per essere stato con noi e complimenti sempre per l'impegno che mettete in questo lavoro. Grazie, complimenti a voi per l'attenzione e la sensibilità. Ci sentiamo presto, probabilmente con Nicoletta, per una puntata più approfondita su questi temi che sono divisivi ma anche molto toccanti tra gli ascoltatori, naturalmente, perché ancora ci sono tanti fumatori in circolazione. Ci fermiamo, c'è il traffico, poi parleremo di longevità, poi una precisazione anche se per quello che riguarda il mercato americano, perché c'è un ascoltatore, parlo di borsa naturalmente, che mi sta massacrando per alcune imprecisioni dette poco fa, andremo a chiarirle a tra poco. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta Cuore e Denari. Allora, in Giappone i ricercatori hanno appena coniato il termine pre-elderly, ossia pre-anziani, per chi ha tra i 65 e i 75 anni. Insomma, si diventerebbe anziani a 75 anni e lo si è fino agli 89, poi si diventerebbe super anziani. Una ricerca che mette nero su bianco quello che già la nostra esperienza conferma: negli ultimi anni la vita si è allungata a merito di condizioni igieniche ed ambientali più favorevoli, i progressi della medicina hanno fatto il resto. Ma se l'idea di vivere a lungo da un lato cialletta, dall'altro ci mette un po' in difficoltà, qualcuno fa addirittura paura. Questo surplus di anni meriterà di essere vissuto? Come saranno questi anni e cosa possiamo fare per assicurarci una longevità senza i danni e i rischi della vecchiaia? Buongiorno dottoressa Maria Giovanna Luini, medico, curatrice del libro. Ogni volta a seconda dell'argomento, dottoressa Luini, la presentiamo con un biglietto da visita diverso. Oggi è curatrice del libro Longevità, scritto con il grandissimo Umberto Veronesi. Buongiorno e bentornata. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Tra l'altro proprio in questi giorni si festeggiano i 10 anni del programma Global Age Friendly Cities, ossia città amiche degli anziani. È un bel progetto voluto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per incoraggiare l'invecchiamento in buona salute e migliorare la qualità di vita di una popolazione sempre più longeva. Dove andiamo a vivere? A Toronto, New York, Varsavia, oppure rimaniamo in Italia, andiamo ad Udine o Imperia, dottoressa Luini? Ma chi vuole andare al mare andrà in Imperia, però anche Udine a me piace molto. Ma spaziamo un po', viaggiamo. Io vado a New York, vedo un po' lei se vuole venire con me. Allora, iniziamo a dare il giusto peso alle parole, come ci suggerisce sempre Nicoletta di fare, perché le parole hanno un peso. Partiamo dal termine longevità, che non è sinonimo di vecchiaia, dottoressa Luini. È importantissimo, pensate al peso su di noi che ha la parola longevità e il peso della parola vecchiaia. Vogliamo essere longevi o vogliamo definirci vecchi? Sembra un giochettino, una cosa poco importante. In realtà, quando pensiamo alla longevità, di solito desideriamo averla e mettiamo in atto tutto ciò che è utile per averla. Se pensiamo alla vecchiaia, invece, spesso diciamo: ah no, io non voglio la vecchiaia. e quindi tutto in noi si predispone a non raggiungerla. Ma noi siamo programmati per vivere a lungo, dottoressa Luini? Non tutti, devo dire, però il DNA ha delle parti che sono state adesso dimostrate come vere. Prima era solo una teoria, quando abbiamo scritto Longevità con Veronesi, ora sappiamo che è vero. Il DNA ha alcune parti che sono le sue parti, diciamo, finali, le parti finali dei cromosomi, che quanto più sono lunghe, tanto più indicano una longevità. Quando queste parti, che sono dette telomeri, si spezzano, si rompono o si consumano, tra virgolette, la vita si accorcia un po'. Ecco, il DNA comunque è programmato per una certa longevità, sì. Però lo stile di vita naturalmente resta uno dei fattori più determinanti nell'allungare ancora un po', come un elastico, no? Questi nostri anni disponibili a disposizione, dottoressa. Molto. Si chiama, la definiamo epigenetica, ma in realtà vuol dire che noi possiamo interagire con il nostro DNA in modo da avere una vita migliore, più sana e più lunga. Quindi il nostro stile di vita incide comunque anche sullo stato di salute del DNA, ma non solo. Se nasciamo con un certo patrimonio genetico, magari con una predisposizione a qualche malattia, anche se non lo sappiamo, in realtà possiamo fare tante cose per non ammalarci e per vivere a lungo. Allora, a proposito di questo, molti studi continuano a dimostrare, ne parliamo molto spesso, e anche questo un po' come quello che abbiamo affrontato nella prima parte di Cuore e Denari, un altro tema molto divisivo perché ci sono molti pensieri differenti fra i nostri ascoltatori. La restrizione calorica aiuta a vivere ancora un po' più a lungo rispetto magari così un po' ai nostri obiettivi. I risultati di tanti studi continuano a dimostrarlo, dottoressa Luini, che ci piaccia o no, qua in Italia ci piace mangiare, abbondare di calorie, però si continua un po' a dimostrare dal punto di vista scientifico il contrario. Ma in verità, se parliamo di longevità, quindi non andiamo a pensare alle singole malattie, se parliamo di longevità, uno dei pochissimi dati reali è che poche calorie equivalgono a una vita lunga, e i dati lo confermano sempre. La restrizione calorica, cioè mangiare veramente molto poco, è associata a una probabilità molto alta di vivere a lungo. I longevi sono quelli che arrivano anche oltre i 90 anni, stiamo parlando di questo, in modo sano. Quindi la restrizione calorica, devo dire che oggi, è forse l'unico dato, insieme all'espressione della creatività, che sia associato realmente a una longevità. Cosa voleva dire a proposito dell'espressione della creatività? È molto interessante, perché a quanto pare chi esprime se stesso, cioè la propria creatività in tutti gli ambiti, chi tira fuori liberamente ciò che è, come gli artisti, o ha una vita breve perché magari ha uno stile di vita sregolato, ma se supera questo stile di vita sregolato poi è molto longevo. Chi fa ciò per cui è nato? Per vivere a lungo, cosa dobbiamo fare per prenderci cura anche del nostro cervello, dottoressa Luini? Intanto stimolarlo, perché lo stimolo al cervello lo mantiene veramente in attività. Gli organi sono tutti fatti per funzionare, il cervello in modo particolare. Non vuol dire che dobbiamo tutti i giorni studiare trattati di ingegneria meccanica, io non li capirei neanche, ecco. Ma ecco, dobbiamo dare al cervello il nutrimento che vuole, quindi guardare il bello, guardare l'arte, leggere, studiare magari lingue straniere anche in età adulta, perché no, anche se non ci vengono benissimo, però le studiamo, fare quei giochi, l'enigmistica, il sudoku, questi giochi qui, insomma tutto ciò che al nostro cervello dà nutrimento. Poi ognuno ha un proprio modo per nutrire il cervello, infatti teniamolo attivo. Però questa ricetta, naturalmente, mancano un po' di sale e pepe, che in questo caso traduciamo in amore e vita sociale. 10 secondi, dottoressa Luini, non possono mancare. Ma certo, l'amore innanzitutto, l'amore è tutto, l'amore per qualsiasi cosa, l'amore per quello che stiamo facendo adesso, l'amore di Deborah per le trasmissioni radiofoniche, l'amore di Giovanna che è qui in ambulatorio, insomma l'amore per il bello, l'amore per ciò che ci fa stare bene, e poi gli altri. Non chiudiamoci, apriamoci, perché la presenza degli altri è fondamentale. Sentirsi inseriti nel tessuto sociale è longevità. Dottoressa Luini, grazie per essere stata con noi, a presto. C'è il giornale radio, torniamo tra pochissimo. State ascoltando un programma offerto da... Grazie alle soluzioni per l'isolamento acustico, da sempre Comfort e Saint-Gobain. Cuore e denari. Io corro dalla mattina quando mi sveglio alla sera quando vado a letto e molto spesso corro anche nel sonno. Faccio chilometri e chilometri in sogno e la mattina mi sveglio già esausta. Corro, come nella storia del leone e della gazzella, solo che io non vivo nella savana e non sono il leone e non corro per mangiare la gazzella e non sono nemmeno la gazzella e non corro per non essere mangiata dal leone. Corro per essere una brava madre, una buona moglie, una persona affidabile nel lavoro e anche un po' per cercare di esistere per conto mio. Corro tanto, ma non ce la faccio mai. Mamme che corrono, certo che se l'ambiente sul lavoro è favorevole, condizioni favorevoli naturalmente per vivere anche pienamente la condizione personale in maniera soddisfacente, siamo tutti più contenti. Insomma, abbiamo scelto questo brano tratto da Una mamma imperfetta, una serie televisiva, una web serie scritta da Ivan Cotroneo e diretta da Stefano Chiantini per introdurre il tema di oggi, perché c'è un mondo nuovo, o almeno piuttosto recente, che si sta sviluppando in maniera significativa in Italia, compatibilmente con la crisi persistente che c'è nel mercato del lavoro, ed è tutto il settore del welfare aziendale, ovvero tutti quei benefit che le aziende sono in grado di riconoscere ai propri dipendenti con l'obiettivo di superare il concetto di retribuzione solo monetaria, che non è che disdegniamo, per carità del cielo, però si cerca di andare oltre, andando a sostenere il reddito dei lavoratori, provando a migliorarne la vita privata e anche professionale. In Italia le ultime leggi di stabilità hanno fatto leva sull'aspetto fiscale, introducendo la detassazione di molti servizi riconosciuti ai dipendenti. Si va dai viaggi ricreativi ai check-up medici, dalle visite specialistiche alle rette per corsi sportivi, gli abbonamenti a riviste quotidiane, molto altro ancora. È un mondo ricco di opportunità, ma del quale si prova anche a misurare il grado di soddisfazione. Siamo proprio sicuri che ai lavoratori di un'azienda interessi di più avere una copertura assicurativa per una serie di visite mediche specialistiche al posto di uno stipendio un po' più alto? Raccontatecelo voi se volete all'800 24 00 24. Noi discuteremo stamattina a 360 gradi, intanto perché proprio in questi minuti a Roma viene presentato il rapporto Welfare Index PMI 2017 promosso da Generalitalia, un evento in cui tra l'altro vengono anche premiate le aziende che si distinguono per le buone pratiche in questo ambito. Ci sono anche delle menzioni speciali per piccole e medie imprese operanti nell'agricoltura sociale, nel terzo settore, nell'ambito femminile e nell'integrazione sociale. C'è anche il mondo bancario che da qualche tempo è attivo sul territorio per fornire alle imprese consulenze e piattaforme di servizi. Insomma, oggi davvero gli argomenti non ci mancano. Intanto saluto, perché è collegato telefonicamente con noi, Andrea Mencattini, responsabile controllate assicurative e rapporti istituzionali di Generalitalia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. L'ho tirato a forza dalla conferenza che state facendo stamattina, è già iniziata, dottor Mencattini? Sta iniziando in questi minuti, ma direi che voi avete con la vostra introduzione colto il punto centrale dei risultati della ricerca di quest'anno. Per quale motivo? La conciliazione vita-lavoro. Ecco, e non lo sapevamo, glielo assicuro che il vostro ufficio stampa non mi aveva anticipato nulla, per cui evidentemente già viaggiamo un po' oltre. Allora ci anticipi già qualcosa, poi presento anche l'ospite che ci ha raggiunto qui in studio. Dottor Mencattini, allora, questo rapporto intanto, questo indice sul welfare aziendale, l'ho sintetizzato in questa maniera, è alla sua seconda edizione, giusto? Sì, è iniziato l'anno scorso, il 2016, per la prima volta. Quest'anno hanno aderito alla ricerca quasi 3.500 piccole e medie imprese italiane, più del 60% in più rispetto a quelle dell'anno scorso, e sono aziende rappresentative di un universo di circa 600.000 aziende in Italia, che costituisce l'ossatura, come sappiamo, della struttura economica e anche poi le aziende che occupano il maggior numero di lavoratori. Queste aziende che avete mappato, monitorato, dottor Mencattini, sono già aziende che applicano nel loro ambito iniziative di welfare aziendale, che le hanno già proposte ai propri lavoratori? Si sono fatte mappare per quale motivo? No, il campione è del tutto casuale. Alcune le abbiamo cercate noi con finalità statistica, altre si sono proposte e non c'è nessuna diciamo così pre-adesione a tematiche di welfare aziendale, tanto è vero che abbiamo potuto vedere per esempio che quelle che hanno un minor numero di dipendenti hanno una più bassa adesione a iniziative di welfare aziendale. Noi lo mappiamo su 12 aree di possibile realizzazione, e chiaramente sono quelle che hanno maggior bisogno di servizi territoriali che aiutino a diffondere il welfare anche in strutture più piccole. Ci dia un po' di contenuto, che cosa avete scoperto allora facendo questo censimento? Una delle prime cose è che le aziende che hanno fatto un passo poi ne fanno anche un secondo, e questo l'abbiamo visto anche rispetto al rapporto dell'anno scorso, cioè chi parte con il welfare aziendale, anche con le iniziative, quelle più classiche di previdenza, sanità integrativa, poi è portato a incrementare il numero delle iniziative, subito passando per esempio ai permessi di sia per la parte di maternità, oltre ovviamente a quello che è previsto dalle norme, si intende, per quello che riguarda anche l'assistenza alla famiglia, agli anziani, e quindi diciamo questa è una terza area che poi si sviluppa in modo preponderante, perché il tema della conciliazione vita-lavoro è veramente quello determinante, sia per i lavoratori in generale, ma una cosa che è emersa per esempio quest'anno, soprattutto per i lavoratori di nuovo ingresso, per i quali il lavoro è una componente più coerente, più integrata nella vita personale, e quindi diciamo vengono particolarmente apprezzate quelle aziende per esempio in cui flessibilità estese di orario sono consentite ai dipendenti. Ci metto un legame anche, dottor Mencattini, la interrompo, sì, poi la lascio completare con il tema che abbiamo affrontato nella prima parte della trasmissione, quello della longevità. Siccome per grazie anche al fatto che siamo più longevi, viviamo di più, dobbiamo lavorare anche un po' di più perché il trattamento pensionistico arriva un po' più tardi, è chiaro che se da una parte abbiamo la necessità di lavorare più a lungo degli anni passati, dall'altra parte abbiamo anche delle esigenze familiari, non solo nonni che devono farsi carico dei nipoti ma anche dei genitori anziani che stanno in casa, è chiaro che il tema della conciliazione vita-lavoro oggi non riguarda più solo ed esclusivamente le mamme che devono andare a prendere i figli a scuola, ma è un concetto molto più ampio rispetto al passato, per cui è chiaro che l'azienda in qualche maniera deve provare a farsene carico anche attraverso questi nuovi strumenti. Che è così, e anche dando la possibilità, per esempio proprio il tema della longevità è uno dei temi più critici, soprattutto se guardiamo ai prossimi 20 o 30 anni, una buona salute che si può curare nel momento in cui si lavora, ma anche magari le coperture di tipo long term care che garantiscono alla persona stessa un livello di assistenza in caso di non autosufficienza per gli anni a venire. Quindi diciamo la gamma delle possibilità di welfare aziendale è notevolissima. Dall'anno scorso tra l'altro abbiamo anche questo forte incentivo fiscale, che potremmo dire che il welfare aziendale con la legge di stabilità ha un po' spezzato il cuneo fiscale per quello che riguarda i premi di produttività, in cui appunto c'è una soluzione di comune interesse, perché in un periodo come questo di risorse economiche scarse viene data la massima efficienza alla spesa, massima efficienza dal punto di vista fiscale e contributivo, massima efficienza anche perché poi alla fine un'azienda funziona quasi un po' come un gruppo d'acquisto, e quindi il fatto di rivolgersi a per esempio i buoni scuola per i libri piuttosto che i buoni spesa per i supermercati o palestre o visite mediche o tutta questa grande gamma di opportunità che possono essere organizzate vengono fatte poi in partenza senza l'onere fiscale e peraltro con la possibilità di ottenere diciamo così dei prezzi vantaggiosi proprio per la numerosità che si può mettere a disposizione. Quindi diciamo è una efficienza complessiva che viene valorizzata in modo estremo in questo tipo di soluzioni. Dottor Mencattini, un'ultima domanda, poi la salutiamo. Ci anticipa, se può farlo, tanto a minuti verrà detto lì alla manifestazione, chi si è visto riconoscere il vostro rating quest'anno, se ci può fare l'esempio, adesso a prescindere poi dal nome, se ci può fare qualche esempio di buona pratica messa in campo in Italia, che cosa fanno le aziende, anche di particolarmente innovativo, perché dobbiamo dirlo che per qualche compagnia un conto è che la multinazionale riesca a mettere in campo certo. appunto progetti, iniziative di questo tipo, sono ormai abituate, adesso non tutte però sono Luxottica o Geox o certo. appunto nomi come questo. La piccola e media impresa italiana ha difficoltà di altro genere e quindi ci può raccontare qualche magari esperienza particolarmente innovativa che ha sorpreso anche voi, a cui però avete riconosciuto il vostro rating, perché la novità di quest'anno è di aver introdotto anche questo nuovo strumento, il Rating sì. Welfare Index per le PMI. Sì, diciamo che l'introduzione del rating, più che a dare un voto, è motivata dal fatto che ciascuno si può auto iscrivere nel sito, ciascuna azienda, e riconoscersi, diciamo, in base alle iniziative che attua, un proprio rating che l'aiuta anche a organizzarsi anche per il futuro, per lo sviluppo di queste attività. Ma di cose ce ne sono, io vi leggo alcuni titoli dei premi, per esempio: la spesa etica si fa in ufficio, piccola azienda che organizza il mercatino dei produttori locali nei propri spazi aziendali. Oppure, per esempio, un'altra iniziativa molto bella che ha a che fare con i figli, che, come sappiamo, insomma, nel nostro paese sfioriamo il 40% di disoccupazione giovanile, non sempre le aziende possono essere dei luoghi in cui anche i figli possono entrare, allora delle aziende organizzano, un'azienda che è premiata, i Talent Days, cioè aiutano i figli dei dipendenti a preparare il curriculum, a sostenere colloqui di lavoro. Ah, già la parola talent mi ero spaventata, dottor Mencatini, dico, non è che questi qua si impegnano a iscriverli ai talent show che vediamo in televisione, no, è un'altra accezione. No, è un'altra accezione di talent, anche magari però dandogli il nome magari si è cercato di attirarli un pochino, subdolamente. Esattamente. Poi moltissimo, per esempio, nell'agricoltura. L'agricoltura ha una tradizione di, diciamo, tutela sociale dei dipendenti, chiamiamolo welfare aziendale, oggi molto importante, per esempio ci sono aziende nelle quali sono impegnati lavoratori, per esempio extracomunitari, che trovano nell'azienda anche la possibilità di avere corsi di lingua per se stessi o per i figli, oppure facilitazioni per trovare l'abitazione. E in tutto questo circuito, diciamo, l'azienda svolge un ruolo determinante, perché aiuta questi lavoratori a diciamo, integrarsi in modo più semplice e più rapido, e allo stesso tempo però si garantisce anche una certa stabilità di contributo, ecco, di questi. Si può fare davvero molto. Grazie per averci regalato questo monitoraggio, dottor Mencattini, lasciamo ritornare. Grazie. Alla vostra Grazie manifestazione di oggi. Buona giornata. Saluti a Io intanto saluto, perché ci ha raggiunto qui in studio, Rossella Leidi, vice direttore generale di UbiBanca. Dico anche la parte di carica in inglese, la dico adesso, poi non la dico più, glielo anticipo già: Chief Wealth and Welfare Officer del gruppo, proprio perché UbiBanca è la prima banca italiana ad entrare nel settore del welfare aziendale. Posso dirlo senza timore di essere smentita che avete questo primato, dottoressa Leidi? Sì, e buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa vuol dire essere entrati in questo mondo come banca? Averlo fatto per prima in Italia, aver avuto questa intuizione, questa sensibilità dell'andare un po' a soddisfare le esigenze che arrivano sia dal mondo dell'impresa che dal mondo, appunto, dei lavoratori, dei dipendenti. Dottoressa Leidi, che cosa state mettendo in pista? Sì, allora, credo che da tutto quello che è stato detto sinora emerga veramente in modo molto chiaro il valore del welfare aziendale e del welfare chiaramente integrativo in generale. Quindi abbiamo voluto, tramite questa nostra iniziativa, dare delle risposte concrete a bisogni concreti. Essendo poi noi una banca, credo che questo abbia un valore particolare, perché la banca è per sua natura connaturata con il territorio dove è radicata. Quindi ha una... Non siete sempre solo brutte e cattive, quelle che speculano, che sono piene di derivati, che non danno mutui, eccetera. Qualche volta direi di no. Ecco, certo. Sul territorio ci sta in maniera abbastanza significativa, ecco. Sì, in particolare, appunto, la nostra tradizione è una tradizione di banca con forti radici territoriali e con una tradizione, appunto, di sostegno e di grande promozione delle comunità nell'ambito delle quali opera. Quindi è stato veramente un passaggio molto molto naturale, mi viene da dire, quindi un'evoluzione di, del modo di fare banca che unisca quindi ad un'utilità economica un'utilità sociale importante. E quindi siamo, ci siamo appunto attivati con questa progettualità che abbiamo quindi portato a realizzazione e abbiamo pensato chiaramente in primis alle nostre 300.000 aziende clienti di tutte le dimensioni, quindi in particolare abbiamo cercato proprio di rendere fruibile questo servizio non solo alle grandi multinazionali che citava prima, che chiaramente hanno molta più facilità nel poter attivare. Esatto, no? Noi pensiamo sempre anche alle iniziative delle aziende della Silicon Valley, no? Dove veramente l'ambiente di lavoro, certo, è la prima cosa, poi si studiano le app innovative e quant'altro. Qua abbiamo ancora un po' un procedimento al contrario. Un po' al contrario. E quindi appunto abbiamo veramente focalizzato la nostra attenzione su un'offerta che potesse essere attivata sia dalla grande azienda che dalla piccola azienda, quindi con una grande attenzione al accompagnare dall'inizio alla fine il processo di attivazione di questi piani di welfare e quindi fornendo, diciamo, una soluzione chiave in mano. Mm-hmm. Dall'iniziativa e dall'analisi insieme all'impresa delle possibilità operative, quindi un aiuto per quanto riguarda proprio anche la comprensione delle grandezze in gioco e della possibilità appunto delle diverse possibilità di strutturazione, ad un'attività vera e propria di consulenza per quanto riguarda poi diciamo la realizzazione del regolamento aziendale, del piano di welfare in senso stretto, che consenta peraltro anche i vantaggi fiscali. Perché non è poi facile partire all'interno dell'azienda, esatto, avere anche un'idea della relazione con il sindacato, parlarne naturalmente, certo, all'interno. Ci sono tutta una serie di competenze, sì, di passaggi giuslavoristici, sindacali, mm-hmm, e quant'altro. Quindi soprattutto per una piccola impresa, quindi meno strutturata, diventa anche oneroso un percorso di questo tipo. Quindi quello che noi abbiamo realizzato è veramente una soluzione end-to-end. Quindi informazione, consulenza e poi l'accesso ad una piattaforma integrata di servizi, esatto, il più ampia possibile. Adesso ne parliamo di questa piattaforma, però ritornando un po' a tutto lo spirito che vi ha animato verso questa direzione, lo avete completato anche di sostanza, nel senso che vi siete fatti aiutare anche da uno studio fatto dall'ADAPT di Michele Tiraboschi, certo, per capire effettivamente se si stava andando verso la strada giusta, se i bisogni delle aziende e dei lavoratori oggi sono realmente questi, e da lì poi li impegnerete, so, per un lungo termine per monitorare costantemente un po' l'evoluzione anche di questi bisogni. Sì, no? Sì, abbiamo appunto attivato in partenariato con ADAPT un osservatorio permanente sulle tematiche di welfare. In particolare in questo momento ci siamo attivati appunto sul filone welfare aziendale, con un'ipotesi poi anche di sviluppare altre diciamo analisi verticali. Questo vuole essere, se vogliamo, anche complementare con lo studio di cui abbiamo parlato poc'anzi, e quindi cercare di analizzare la dimensione anche territoriale del welfare aziendale, perché questo credo sia un tema fondamentale. Quindi è corretto ed è un importantissimo il punto di vista della singola azienda, ma dall'altro lato è molto importante dare una dimensione più di sistema e di territorialità, mm-hmm, all'insieme delle opportunità di welfare, quindi una sorta di rete di welfare che si va costruendo su un territorio. E in questo senso, di nuovo, noi crediamo che come banca possiamo fare veramente molto per promuovere un ecosistema territoriale di welfare, quindi che possa coinvolgere tutte le eccellenze del territorio da questo punto di vista, sia dal punto di vista della fruizione di questi servizi che dal punto di vista della fornitura. Quindi l'azienda che parla con la scuola del territorio piuttosto che con il mercato agricolo di cui parlavo prima. Il mercato agricolo che diventa fornitore, per concretizzare ovviamente le famiglie che sono, che sono gli ultimi, i beneficiari, i fruitori ultimi di tutto questo. Quindi si va a costruire effettivamente un valore sociale in tutto questo, che trascende poi quello che è, se vogliamo, il beneficio fiscale tout court. Spirito è chiarissimo, ma tutto questo quanto costa l'imprenditore? Noi cercheremo di capirlo nella seconda parte della trasmissione, perché abbiamo interpellato anche alcune società di consulenza che adesso si stanno proprio specializzando su questo, nell'andare a parlare con gli imprenditori per raccontare loro che cosa possono fare, quanto costa, quanto risparmiano anche dal punto di vista fiscale. C'è un ascoltatore che la prima cosa che ha chiesto è questa: benefit sul lavoro, ma che cosa state dicendo? Ah no, un ascoltatore che ci racconta, io da quando sono divorziato, povero, tutti i benefit vanno alle mie ex moglie. Un altro ascoltatore chiede: perché non monetizzano questi benefit? Forse perché non fa in dare soldi agli operai, no, proprio per il motivo che abbiamo spiegato all'inizio, perché chiaramente un imprenditore può fare quel che vuole, può dare dei premi di produttività, però ti fa reddito e poi si alzano, come dire, le aliquote anche fiscali, l'IRPEF e quant'altro. Attraverso queste iniziative invece c'è tutto il vantaggio fiscale sia per il datore di lavoro che per il dipendente. Peraltro, se posso aggiungere, è una scelta del dipendente la fruizione del servizio, quindi l'opzione di avere appunto il premio corso monetario, per carità, ci può stare, però chiaramente vengono meno tutta una serie di vantaggi sia in termini di potere d'acquisto, perché oggettivamente con questo tipo di conversione si azzera l'incidenza fiscale sul premio. Adesso vi facciamo magari una rosa anche di tutti i benefit possibili e quali, anche se con generale un pochino ne abbiamo sentiti già alla luce delle aziende che vengono premiate questa mattina a Roma. Intanto 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, poi riprenderò a leggere anche qualche altro messaggio. Ci sentiamo tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Grazie alle soluzioni per l'isolamento acustico, da sempre Comfort e Saint-Gobain. Cuore e denari. Stavo a pensare una cosa. Se rinunciamo a sti 7 minuti, a che dovremmo rinunciare di più? All'assicurazione? A un mese di protezione? Voi ricordate che è successo in quella fabbrica al nord ad agosto? È andata a fuoco un intero capannone. Ci sono morti dentro 3 operai, 3 padri di famiglia. I proprietari avevano deciso di vantaglio al personale dei gruppi antincendio. Pure là il consiglio di fabbrica aveva votato. Voto favorevole. Solo per risparmiare. 7 minuti è un film italiano dello scorso anno diretto da Michele Placido e peraltro ispirato ad una storia realmente accaduta in Francia, ma c'è la trasposizione italiana. C'è un'azienda tessile che è in procinto di siglare un accordo che la salverà dalla chiusura immediata. I partner francesi sono pronti a concludere, ma all'ultimo momento consegnano alle 11 componenti del consiglio di fabbrica, quindi anche alle sindacaliste appunto di questa azienda, una lettera in cui si chiede loro di sacrificare, di fare un ulteriore sacrificio, 7 minuti di intervallo al giorno in una pausa che era già, da quello che mi ricordo, molto risicata. Da qui si scatena naturalmente anche la lotta tra di loro, la consueta guerra tra poveri. È un film che abbiamo scelto questa mattina di utilizzare per ritornare sul tema del quale stiamo parlando questa mattina, che in realtà ci appare un mondo completamente diverso rispetto a quello rappresentato da questo film, che è stato anche un testo teatrale molto bello di Stefano Massini. Parliamo di welfare aziendale e tutte quelle iniziative che oggi le aziende possono mettere in campo per migliorare la vita dei propri dipendenti, sia dal punto di vista professionale e lavorativo che poi direttamente e indirettamente quella appunto anche personale. Allora, con noi stamattina qui a Cuore Denari abbiamo la dottoressa Lossella Leidi, che è vice direttore di UbiBanca, perché proprio pochi giorni fa questa banca ha presentato UbiWelfare, un ecosistema di servizi per persone, imprese e territorio, come è stato definito appunto anche nella vostra conferenza stampa. Ma adesso andremo anche a sentire un po' l'esperienza di tutto quel mondo di consulenza che si sta formando in Italia, proprio per andare a raccontare agli imprenditori questo mondo, le opportunità fiscali che ci sono e quali sono anche gli effetti positivi che si possono realizzare fra i dipendenti come ricadute anche in termini di produttività e non solo. Allora, la prima esperienza che sentiamo Ricordando peraltro, perché altrimenti Marco mi sgrida, che siamo in diretta Facebook e quindi adesso attiviamo anche i nostri ascoltatori che ci seguono dal social network in diretta, la prima esperienza che vogliamo ascoltare è quella di Giovanni Scanzani, amministratore delegato di Valore Welfare, che è proprio una società di consulenza specializzata nell'erogare questo tipo di informazioni alle imprese, appunto, sui temi del welfare aziendale. Scanzani, buongiorno e benvenute, grazie. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Senta, allora, ci sono, immaginiamo, imprenditori che prendono da sé l'iniziativa, altri che invece vanno magari un pochino stimolati e convinti perché di questo mondo non sanno nulla o addirittura non ne vogliono sapere neanche nulla, no? Molto tradizionali nella relazione con i dipendenti. Ma a parte l'incentivo fiscale, che però magari oggi c'è, domani potrebbe anche non esserci più, qual è secondo lei la logica, non so, di lungo periodo che dovrebbe muovere un imprenditore nel portare avanti questi piani? Che cosa le dicono gli imprenditori che lei incontra? Allora, diciamo, sicuramente le grandi imprese hanno una affinità maggiore con questi temi perché sono spesso espressioni di culture molto radicate nel tempo che risalgono anche diciamo a decenni e decenni or sono, e che hanno cominciato a fare welfare in azienda, comunque ad occuparsi dei bisogni dei lavoratori, delle loro famiglie, già da molto tempo. Nelle PMI italiane c'è sicuramente un ritardo culturale, ci sono anche delle difficoltà oggettive dovute appunto alla loro dimensione in particolare, però c'è un segnale molto forte, favorito anche dalle recenti innovazioni e dalle recenti modifiche normative, di forte interesse da parte di questo cluster di imprese che sempre più si avvicinano a questo tema e che hanno messo in campo in alcuni casi anche ormai delle best practice che altre imprese della loro stessa dimensione stanno guardando con interesse per trasferire questo tipo di cultura anche al loro interno. Chiaramente c'è una bella differenza tra fare welfare in azienda per sfruttare solo e esclusivamente il saving che deriva dal beneficio fiscale e invece occuparsene e introdurre questo tipo di politiche in maniera più strutturale e strategica, direi. Il welfare introduce o esalta maggiormente nel rapporto di lavoro delle componenti che sono proprio di uno scambio sociale, che differenziano queste componenti da quelle tradizionali dello scambio di mercato, salario contro prestazione. Ora, uno scambio sociale fa entrare nel rapporto di lavoro e nella relazione tra il lavoratore e l'impresa delle componenti anche immateriali come la lealtà, la fiducia, la reciprocità, che non sono componenti contrattabili. In questo modo si alzano certamente i livelli delle motivazioni intrinseche delle persone, che sono diverse dalle motivazioni invece utilitaristiche più materiali, e le motivazioni intrinseche sono poi quelle in grado di generare effetti molto significativi. Scanzani, quanti imprenditori è riuscita a convincere con queste ragioni? Quando si capisce che lo sviluppo di queste dinamiche interne incrementa la produttività delle persone, quindi la qualità del lavoro e quindi gli output che il lavoro produce, il convincimento non è facilissimo, ma c'è. E del resto le imprese che cominciano a fare welfare in azienda vedono quasi subito dei risultati percepibili e misurabili. Noi ci occupiamo molto della misurazione dei risultati perché il welfare è un investimento, non un costo, e come tutti gli investimenti deve produrre un risultato e un ritorno. Il ritorno di valore dell'investimento in welfare in azienda è un ritorno complesso fatto di tanti elementi, certo, sia umani che economici, e tutti questi sono misurabili, quelli tangibili e quelli intangibili. Cosa diversa da quelle operazioni, evidentemente più dubbie, perché aleatorie, perché rimesse ad un'incertezza, che sono quelle invece concernenti la welfareizzazione del premio di risultato. Quella non è fare welfare in azienda, ma è utilizzare un sistema diverso per erogare un premio. Ma il premio oggi ce l'ho perché ho conseguito i target e domani potrei non averlo. Mentre i bisogni delle persone, delle famiglie rimangono, sono persistenti e necessitano di un soddisfacimento, certo, che non può, però insomma, senza demonizzare una soluzione rispetto all'altra, certo, il tema è utile, ovviamente è che ci sia piena consapevolezza del lavoratore, certo, sulla scelta, certo, che fa. Certo, allora, Scanzani, io la ringrazio per la sua testimonianza, le faccio in bocca al lupo per il suo lavoro. Intanto sto continuando a monitorare i messaggi degli ascoltatori. Lisa da Rimini ci racconta che è molto contenta del piano welfare della sua azienda, che negli anni sta anche migliorando, posso usufruire del rimborso spese asile materna dei figli, in futuro se la scelta figli romi potrò permettere anche la scuola privata, non sono tassati e in fondo sono soldi che entrano nel bilancio familiare. Il tema, dottoressa Leidi, è proprio questo, che qualche volta in realtà magari è ovvio che la monetizzazione dello stipendio la vedo a fine mese e la uso come vuole. In questo caso il beneficio non è immediatamente visibile, ma in realtà penso che il lavoratore intelligente sia molto contento, insomma, di non pagare direttamente la retta della scuola e magari un investimento che col contante forse non avrebbe pensato di fare in determinate maniere, no? È così, e poi veramente stiamo parlando comunque di bisogni veri, quindi stiamo parlando ad esempio di sanità, stiamo parlando appunto di avere una copertura assicurativa dal punto di vista di nuovo sanitario, o un accesso più facile di rimborsi di spese del quotidiano, dei libri di scuola, piuttosto appunto che delle tasse, mm-hmm. Delle tasse scolastiche. Stiamo parlando di agevolazioni anche per quanto riguarda il tempo libero, quindi appunto ad esempio attività sportive, cose di questo tipo, o ancora stiamo parlando veramente di beni di uso quotidiano, quindi della possibilità nei limiti in particolare appunto di circa 250 euro di avere anche dei voucher per, mm-hmm. per l'acquisto appunto, certo. di beni ci può già anticipare, devo già andare a fare un'altra pausa qua, il tempo sta volando, okay. Come funzionerà la vostra piattaforma di contatto con le imprese che già servite come clienti, e come attraverso questo dispositivo, se possiamo chiamarlo così, appunto li stimolerete ad una riflessione su questi argomenti? Sì, abbiamo formato una rete di specialisti, perché riteniamo davvero che il tema sia da affrontare con grande professionalità. Sì. Quindi, insomma, che non deve essere un servizio erogato allo sportello come una consulenza su un conto corrente. Esatto, ecco, è chiaro. Necessario davvero un contatto molto approfondito con l'impresa e poi di un impegno all'informazione dei dipendenti. Quindi una rete specialistica che affianca chiaramente tutta la rete commerciale del gruppo. Quindi da un lato una formazione comunque su tutta la rete commerciale, ma che si varrà poi di questi specialisti. Per quanto riguarda poi la possibilità appunto di raccogliere, di avere maggiori informazioni su questi servizi, abbiamo una partizione appunto una parte del nostro sito dedicato a questa tematica e quindi dove ci sono appunto tutte le possibilità di contatto e qualora appunto gli ascoltatori ci volessero scrivere, vi è appunto anche un indirizzo email, ubiwelfare@ubibanca.it. Mi fa fare pubblicità oggi, poi lo sa che io ogni tanto divento, un giorno sono la venditrice dei mutui, un giorno dei fondi d'investimento, oggi eroghiamo insieme i servizi di welfare aziendale veicolati attraverso UbiBanca. Detto questo, qua in realtà è venuto tutto in maniera molto trasparente. Allora ci fermiamo, c'è il traffico, poi ancora un altro paio di esperienze di due società specializzate nella consulenza in questo campo. Un ascoltatore che è Giuseppe dalla provincia di Cuneo, se ce la faccio un'ultima domanda, Rossella Leidi, vediamo, insomma, i miracoli dobbiamo fare stamattina, tra poco. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta. Cuore e denari. Ah, mi ha messo c'è da fare di Giorgia a tradimento. Abbiamo un sacco di cose da fare nei 7 minuti di tempo che ci rimangono. Allora sento subito Paolo Barbieri, founder, ha fondato ed è attualmente il CEO di Welfare for You con il 4 naturalmente. Barbieri, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Deborah e buongiorno ai radioascoltatori, una grazie per l'invito. Startup innovativa che opera proprio in questo campo. Allora, qual è la vostra esperienza? Che tipo di sensibilità state trovando tra gli imprenditori che incontrate per fornire queste soluzioni, Barbieri? Ma l'interesse è molto forte, perché anche stimolato fortunatamente con le due leggi di stabilità, la legge di bilancio del 2017, ha chiaramente creato un mito al contratto dei metalmeccanici, che ha previsto l'erogazione 100 euro quest'anno, poi a crescere negli anni a venire la retribuzione in forma di flexible benefit. Tutti questi elementi hanno creato chiaramente una condizione che facilita lo stimolo verso l'introduzione di piani di welfare, e confermo che gli imprenditori sono orientati a farlo con una logica di piccoli passi, quindi iniziare. Ma sono più mossi graduale. Dall'incentivo fiscale o dall'idea di migliorare appunto la relazione con il dipendente, la qualità della vita del dipendente, insomma, o ancora c'è sempre l'aspetto fiscale che muove un po' più l'interesse rispetto a tutto il resto? Io noto che l'incentivo fiscale fiscale è più, diciamo, la condizione di inizio della discussione, ma poi in realtà, venendo da un periodo prolungato di crisi che c'è stato negli ultimi anni, si è così creata una tensione nel rapporto imprenditori-lavoratori che il welfare diventa anche un modo per riprendere un dialogo e uno ascolto attivo molto importante. Chiarissimo. Barbieri, aspetti lì, se riesco le faccio un'altra domanda, non glielo prometto, vorrei sentire anche Giorgio Trichilo, responsabile della comunicazione di Wellwork, anche in questo caso un'azienda che si occupa di welfare aziendale per le piccole e medie imprese. Peraltro, se andate a guardare sul sito di questa società, hanno delle aree di intervento anche molto interessanti, denominate in modi specifici dalla parte di mamma e papà: pensiamo alla salute, il tempo non si spreca, occhio al risparmio, il tempo libero, e chi più ne ha più ne metta. Trichilo, buongiorno anche a lei. Buongiorno, buongiorno. La sua esperienza invece che cosa ci racconta? Insomma, quali sono le aziende particolarmente interessate a questi piani? Come vengono colte le vostre sollecitazioni? Ma infatti, come lei ha anticipato, Wellwork è una società che in particolare si interessa di welfare aziendale dedicato alle piccole e medie aziende. Questo perché nasce da un'esperienza pregressa di consulenza del lavoro e quindi un'attenzione e una conoscenza approfondita di quel mondo delle piccole e medie imprese. E quando dico piccole mi riferisco proprio a delle realtà in cui vi è il datore di lavoro e magari 3 o 4 dipendenti. E c'è da parte di questi soggetti naturalmente l'interesse, c'è anche più delle volte la scarsa conoscenza dei vantaggi che si possono avere attraverso il welfare aziendale. Diciamo che il mondo delle PMI in alcuni casi è ancora un terreno da esplorare, da sensibilizzare, da far crescere culturalmente. La forza di Wellwork, di un soggetto così piccolo ma dinamico, è proprio la sua storia di una società già specializzata nella consulenza del lavoro, e quindi ha la capacità di cogliere le sensibilità e anche di sciogliere le legittime diffidenze che in alcune piccole realtà si possono verificare. Trichilo e Barbieri, vi faccio ascoltare una domanda di Giuseppe dalla provincia di Cuneo, sentiamo chi è in grado di rispondermi. Non è un quiz alla Mike Buongiorno, naturalmente, però io non sono in grado di dare questa risposta, vediamo se sulla base della vostra esperienza ce la facciamo. Giuseppe, buongiorno, velocissimo, sì. Grazie. Sì, buongiorno, volevo solo sapere questo, se fra, diciamo, gli strumenti di welfare aziendale, sì, possiamo includere anche la polizza auto. Grazie Giuseppe. Barbieri, perché no, immagino. No, la polizza auto non è prevista. Ah, ecco, io proprio già ero andata. La normativa lo esclude. È molto ampia, ma non è previsto. Perché lì magari c'è tutto un po' il tema dell'eventualmente noleggio aziendale, di flotta aziendale, è un altro tema. Ecco. Sono già coperti con un tema separato, come con un trattamento anche fiscale separato, e quindi non rientrano nei temi del welfare aziendale. Roberta su Facebook invece ci scrive: non potrebbe rientrare anche il servizio di counseling, quindi, che ne so, di formazione continua all'interno delle aziende, motivazioni, Trichilo? Ma questo, allora, come ha anticipato prima giustamente Barbieri, nelle piattaforme di welfare, per quanto si compete il flexible benefit, ci sono già delle aree fisse, nel senso che sono state già stipulate dal legislatore, e dirò di più, le aziende all'interno di un piano di welfare aziendale hanno degli obblighi ben precisi per quanto riguarda la differenziazione della somma da erogare al dipendente, per cui il dipendente non può spendere la somma solo per una voce, ma deve distribuire il budget sulle varie voci. Ci stiamo addentrando però in un tema un po' complesso. Guardi, ho un minuto di tempo, per cui devo salutarla, Trichilo, ma vi richiamo per fare altri ulteriori approfondimenti su questi aspetti. Voglio solo salutare, prima appunto della chiusura della trasmissione, Rossella Lady. Peraltro c'è un'ascoltatrice che scrive: ricordate che era welfare aziendale quello che faceva Adriano Olivetti? Effettivamente un po' tutti possono diventarlo, no? In Italia. Persino la banca, Lady. Chiudiamo con un messaggio, poi dobbiamo salutarci, ma ci ritorneremo su questi temi. Molto volentieri. Vorrei soltanto aggiungere un aspetto che non avevamo toccato prima. Sempre riguardo appunto alla tipologia di servizi, quello che noi riteniamo di possa essere sia molto distintivo è il portare all'interno di questa piattaforma realtà del terzo settore, mm-hmm. che sono tipicamente molto presenti nei servizi socio-assistenziali, per esempio. Ah, certo. Ad esempio. Quindi riuscire davvero a promuovere anche attraverso queste piattaforme l'attività molto importante di questa forma di welfare integrativo. Certo, voi siete partiti da pochissimo, dottoressa Lady. Le aziende, che tipo di riscontro avete già ottenuto in questi primissimi giorni lancio? Stiamo notando veramente un interesse molto molto significativo. Abbiamo le agende piene di appuntamenti. Benissimo, per i vostri operatori super specializzati. Ci faccia sapere come va. In bocca al lupo volentieri. Per tutto. Grazie. Grazie anche a Giorgio Trichilo e a Paolo Barbieri. Terminiamo qua, ci sentiamo domani. Buona giornata.